@radio24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera cominciamo subito parlando di amori che finiscono e di donne che diventano ricche. No, non siamo diventate spietate. Partiamo con un servizio che noi abbiamo tratto dal CD del nostro English 24 in edicola. È un'analisi molto interessante che fa il serissimo Financial Times Wealth. Praticamente le leggi del divorzio in Gran Bretagna sono molto diverse rispetto ad altri paesi, e questo ad esempio ha consentito alla ex signora McCartney di tirarsi su un bel gruzzoletto con il divorzio, ma sappiamo qualcosa di più ascoltando il servizio dal CD di English 24. Prurient readers of the daily press waited eagerly for details of the divorce settlement between Sir Paul McCartney and Heather Mills. At 24.3 million pounds, Sir Paul joined the ranks of one of the biggest payers of cash to an ex-spouse. The figure was not, however, unprecedented. London is widely seen as the divorce capital of the world and was the ideal place for Mills to pursue her case. The divorce regime in England and Wales is out of step with other legal jurisdictions in that it favors the less wealthy spouse. If the couple had filed for divorce in Los Angeles, for example, her settlement would have been much smaller. In California, a rigid community property system means that if you have money and marry someone much younger and without money, everything you bring into the marriage is safe from attack. Allora Giulia, niente gossip, questa è un'analisi molto seria del Financial Times Wealth, anche se parte con la curiosità di tutti, insomma, di sapere come era andata a finire anche economicamente tra Paul McCartney e la signora Mills. Certo, è stata un po' una telenovela con i cronisti appostati davanti ai tribunali, quindi il Financial Times dice tutti waited eagerly, to wait eager, eager vuol dire avere tanta voglia, quindi eagerly con tantissima voglia, ovviamente è l'avverbio, quindi eravamo tutti i lettori, soprattutto dei giornali di gossip, erano vogliosissimi di sapere i settlement details, quindi i dettagli sul settlement, l'accordo di divorzio. Sir Paul, e sappiamo che Paul è Sir perché è baronetto, joined the community of the biggest payers of cash. Lui non era molto contento, cosa gli è successo? Sì, ha dovuto pagare alla fine 24.3 billion pounds, che vuol dire qualcosa come 35 milioni di euro, e questo è stato il divorce settlement, e quindi lui è entrato in questa comunità di biggest payers of cash, cioè coloro che hanno pagato più cash, perché vengono naturalmente questi accordi poi vengono finalizzati con una transazione monetaria, cioè, e quindi lui ha dovuto sborsare questa cifretta da 35 milioni di euro. Non male. E quindi il Regno Unito e quindi Londra diventano la capitale dei divorzi? Sì, Londra viene vista, dice Financial Times, come la divorce capital of the world, quindi la capitale proprio mondiale dei divorzi, perché, oddio, poi dovrebbero, forse il Financial Times si è dimenticato di guardare le leggi italiane, perché anche le leggi italiane sono favoriscono la parte meno fortunata, anche se vabbè poi i processi durano un sacco di anni. Comunque questa legislation, secondo Financial Times, è out of step rispetto alle altre. Out of step è un modo di dire che significa letteralmente fuori dal passo, però vuol dire che è diversa, completamente impostata in un modo completamente diverso dalle altre. Ad esempio negli Stati Uniti cosa sarebbe successo? Se quindi avesse to file for divorce, vuol dire quindi chiedere, to file, vabbè sappiamo tutti che un file è un documento, però to file something è fare una richiesta ufficiale, quindi in generale a un ufficio, a un tribunale. Quindi se avesse fatto richiesta di divorzio in LA, in Los Angeles, le cose sarebbero andate molto diversamente, probabilmente. Perché si fa ad esempio il caso di un uomo molto ricco che sposa una ragazza molto giovane e che ha la gioventù come unica ricchezza? E quindi letteralmente everything you bring into the marriage, quindi la persona ricca che porta una serie di cose nel matrimonio, ricchezze mobiliari e immobiliari, bene, tutte queste ricchezze sono safe from attack, sono difese, perché safe vuol dire anche cassaforte, però vuol dire essere al sicuro, quindi sono messe al sicuro da eventuali attacchi, che naturalmente è molto triste pensare che già quando uno si sposa già deve pensare che un giorno la sua ricchezza sarà attaccata dalla persona a cui sta giurando amore eterno. E siccome è un po' triste e un po' angosciante, io vorrei sorridere anche un po' su questo argomento. Possiamo farlo grazie a una serie televisiva molto molto divertente che arriverà presto anche in Italia. Si chiama Starter Wife. La protagonista è Debra Messing, che tutti ricordiamo come Grace in Will and Grace. Sentiamo il trailer di questa serie televisiva. This is the writer I was telling you about, Molly Kagan. Hi. Zach thinks you can turn that journal into gold. Gold is my favorite color. Is that true? This magazine thing may turn out to be a real opportunity. Way to turn my life around with me on top. Are my pupils dilated? You're fine. It is not the number of men. It is what you do between the sheets. Certainly true. I have discovered my inner control freak. Step back, everyone. She's just a little cranky. Of course I'm cranky. I haven't eaten in 12 years. I live in a crazy world. You're kidding, right? All I want to do is tell you to bite me. Think big meets Die Hard. I call it Big and Hard. Damn. Okay, am I missing something here? The Starter Wife is back as a new USA original series, Friday starting October 10th, only on USA Network. Characters welcome. Allora, il 10 ottobre comincia la serie lunga, perché già c'era stata una serie più breve che è già stata vista da chi, insomma, ha già un po' curiosato in rete. Starter Wife è questa Molly Kagan interpretata da Debra Messing. Come inizia questo trailer? Sì, lei le viene offerto questo lavoro e viene definita come una persona che può turn that journal into gold, cioè può cambiare, può trasformare. To turn vuol dire proprio trasformare, anche se vuol dire anche accendere. To turn that journal into gold, trasformare un journal, che può essere una rivista, un giornale, un quotidiano, in questo caso è una rivista, into gold, in oro, perciò naturalmente può renderlo una pubblicazione di successo. A real opportunity. Lei le viene offerto questo lavoro con tutte queste aspettative e lei stessa dice it's a way to turn my life around, quindi to turn something around vuol dire letteralmente girare qualcosa, ma rivoluzionarlo in meglio, e poi dice scherzando with me on top, cioè faccio questo cambiamento e io però resto in cima a questa vita rivoluzionata, o meglio divento più leader della mia vita, ecco. Allora, questa serie è ambientata a Hollywood, infatti lei è la prima moglie di un magnate del cinema. Poi c'è anche un gioco di parole sui titoli di questi film, Die Hard, lui si inventa un think big, Die Hard. Sì, quindi think big, pensa in grande, Die Hard, duro a morire, quindi alla fine... Mi sono persa qualcosa forse? Am I missing something? Am I missing something? Che vuol dire appunto, sapete che missing vuol dire scomparso, missing in action vuol dire soldato scomparso in guerra, però to miss something vuol dire anche mi sto perdendo qualcosa, cioè avete detto qualcosa che non ho capito, quindi è un modo un po' scherzoso appunto per dire cosa state dicendo. Appunto, poi si conclude il trailer con l'annuncio di quando andrà in onda questa serie e si conclude con un characters welcome. Sì, che questo è molto divertente perché a volte, non so, si dice i suggerimenti sono benvenuti eccetera, in questo caso personaggi benvenuti, che naturalmente non vuol dire che la serie sia aperta ad aspiranti attori, ma è il solito modo, un po' di solito è il modo di ironizzare di questa serie, che insomma, essendoci Debra Messing, ce lo aspettiamo. Essendoci Debra Messing, ce lo aspettiamo. Invece, cosa possiamo aspettarci da altre celebrità? Sul nostro English 24 in edicola c'è in copertina, in prima pagina, la coppia più bella di Hollywood, Brangelina, Brad Pitt e Angelina Jolie. Eppure c'è un pericolo legato a Brad Pitt, lo ha scoperto la Sky televisione inglese, in particolare Jo Christie Smith, che è una blogger che parla con Martin Stanford di una storia molto divertente che riguarda Brad Pitt e la rete. Sentiamo. Why is searching for Brad Pitt a risky business? Well, this is when people put searches for the most popular names in the internet, and it's generally entertainment. He's right up there. Names, yeah. And so people who want to spread viruses and malware use that, and Brad Pitt is he's the number one search for catching a virus or malware. Other ones are, I think, Jennifer Lopez is one, and things like that, and ringtones, pulling down ringtones. So, you know, you'd think it would be some politicians who would be the most likely, the ones with the viruses. But it's not. It's the very handsome Brad Pitt. Allora, cosa combina Brad Pitt? O meglio, cosa si combina nel nome di Brad Pitt? Sì, che poi avete sentito bellissimo come questa inglese pronuncia il nome, no? Anziché Brad, e anziché Pitt. Insomma, è molto all'inglese. Il trucco, naturalmente, è che tutti noi a volte cerchiamo, siamo in astinenza da Brad Pitt, e quindi facciamo una ricerca su Google e vogliamo notizie su di lui e foto su di lui. Quello che può succedere è che facendo questa search, quindi put searches con il nome Brad Pitt, quello che ricevono è viruses and malware. Viruses sono naturalmente i virus, scritto come in italiano, malware, scritto proprio M-A-L-ware, come la parte finale di software, è tutto quello che, tipo i virus, si propaga attraverso la rete e danneggia i nostri computer. Quindi to spread, propagarsi, proprio come un virus. Brad Pitt, ma anche altri, tipo Jennifer Lopez. Sì, perché insomma noi, la maggior parte di noi donne vorrebbe una foto di Brad Pitt e invece magari gli uomini vorrebbero quella di Jennifer Lopez. E quindi anche lei è a rischio, cioè tu credi di trovare una bellissima foto di Jennifer Lopez o le notizie sul suo ultimo film o sul suo ultimo disco e invece ti trovi un virus nel computer. Quindi it's not the politicians, it's the very handsome Brad Pitt, il più grande risky business. Sì, risky business, vi ricordate il film con Tom Cruise, forse il primo film di Tom Cruise, vuol dire letteralmente un affare rischioso. Quindi sapete che business in inglese è una di quelle parole molto versatili, e naturalmente vuol dire affari, però vuol dire anche affari nel senso appunto come una ricerca su internet, cioè qualcosa che si fa. Quindi occhio a Brad Pitt è il nostro consiglio per il fine settimana, perché si conclude qui il nostro English 24 di questo sabato. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.